X24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Bufera su Expo 2015. Procura e Guardia di Finanza di Milano arrestano 7 persone. Sono finiti in carcere Angelo Paris, il direttore della pianificazione acquisti di Expo. L'ex parlamentare di Forza Italia Luigi Grillo e l'ex esponente della Democrazia Cristiana Frigerio. I reati ipotizzati sono associazione a delinquere, corruzione, turbativa d'asta. Con loro anche un esponente del Partito Comunista Italiano, Primo Greganti. Insieme ad Sergio Cattozzo e l'imprenditore vicentino Enrico Maltauro. Il procuratore Bruti Liberati fa sapere che il commissario Giuseppe Sala non è coinvolto in alcun modo. Expo 2015 dunque preoccupa molto ed entusiasma poco. Il procuratore capo Bruti Liberati spiega. L'obiettivo era di arrivare, se vi fosse stata la necessità di intervenire, di recidere dei rami da recidere, venisse fatto nel più breve tempo possibile. È una corsa contro il tempo, si lavora 20 ore su 24 perché i cantieri faticano a trasformarsi in padiglioni. 1,3 miliardi di euro nella speranza di accogliere 20 milioni di visitatori. Le aspettative erano tante, a partire da Letizia Moratti. Soddisfatta di aver portato Expo a Milano, un po' meno soddisfatta della direzione che ha preso, perché l'Expo nella mia visione avrebbe dovuto essere un Expo della conoscenza, un Expo di cooperazione internazionale, un Expo di sostegno ai paesi in via di sviluppo. Le attese sono molte, anche per gli imprenditori come Guido Barilla. L'Expo è una grande speranza che il paese deve avere, è un progetto unico. Dovremmo riflettere con grande attenzione come proporre al mondo il Made in Italy da vendere, e l'alimentazione e la gastronomia è una parte significativa del Made in Italy. Anche il costruttore Pietro Salini dice. È una bella infrastruttura, serve a fare una vetrina per l'Italia, certamente importante, quindi mi aspetto che abbia il ritorno che tutti quanti noi ci aspettiamo. Un paese come il nostro ha diritto di avere una visibilità importante. Ma accogliere milioni di visitatori è una sfida difficilissima, come sottolinea ancora Letizia Moratti. Se ci attrezzeremo per riuscire a farli arrivare. Non brilliamo per i servizi turistici, anche i dati sono preoccupanti, meno 4%, quindi è questione di offrire dei servizi ai turisti che vengono, oppure li perdiamo. A febbraio chi invece sembrava non avere alcun dubbio era Oscar Farinetti, che rilanciava scommettendo che loro ne spettano una ventina di milioni, secondo me ne arrivano molte di più. Ma l'Expo come sta venendo fuori a Milano? Secondo me nella direzione giusta, e noi italiani verso la fine ha notato che ogni volta poi la raddrizziamo, quindi è da raddrizzare, già fatto. Ci stiamo lavorando. Sala è una persona intelligente, sia Carlin Petrini sia il sottoscritto molto più umilmente, stiamo cercando di aiutarlo. Ci crede. Ecco, Oscar Farinetti, buongiorno. Buongiorno. Ha sentito cosa dicevamo 3 mesi fa? Confermo tutto. Febbraio, lei conferma tutto, le speranze non sono diminuite dopo gli arresti? Anzi, diciamo che è una nota positiva, far fuori i rami secchi a questo punto è molto importante. Mi sembra di aver capito ieri sera che la procura non metterà bastoni tra le ruote, insomma non rovinerà i tempi. Ecco, infatti Bruti Liberati, l'abbiamo sentito, dice le indagini, gli arresti tagliano i rami secchi e rendono più spediti i lavori. È solo una speranza o lei ci crede veramente? Ci credo, anche se è una batosta, è stato veramente un'immagine orribile questa qua. Bisogna cambiare le persone, perché se alla fine usiamo sempre le stesse persone. Guardi, la fortuna dell'Expo è che c'è Giuseppe Sala, che si sta dimostrando un fenomeno, lui tiene duro. E infatti doveva essere qui stamattina, ma giustamente ieri aveva quel consiglio di amministrazione. Sì, infatti, vabbè, l'avremo nei prossimi giorni, però i lavori però sono in ritardo. Rischiamo una figuraccia nel mondo? I lavori sono in ritardo, come sono sempre stati in ritardo. Guardi, io mi ricordo come fosse adesso 2005 con le Olimpiadi invernali a Torino, un sacco di polemiche, eravamo in ritardo, poi alla fine fu un successo enorme, sì, che cambiò, è vero, anche a Torino, molto la città. Io spero che succeda ugualmente. Le ultime volte che ho sentito i signori dell'Expo mi hanno detto che ce la fanno magari all'ultimo, insomma, ma i tempi, il calendario per ora è ancora rispettabile, ecco, per finire all'ultimo momento finire. Quello che serve e avere una comunicazione e un modo di affrontare questo Expo abbastanza coerente fra tutti i padiglioni, che ci sia un messaggio chiaro, questo è molto importante. Ecco, però, signor Farinetti, a un anno dall'apertura bisogna che ci sia già questo, non che sperare che arrivi, bisogna che il progetto sia già coordinato con questo obiettivo che dice lei, che mi sembra fondamentale. Beh, sappiamo tutti che nel frattempo sono cambiate alcune amministrazioni, sono cambiati i politici, adesso notiamo che i politici che l'hanno portato già lo criticano, sono arrivati degli altri, e insomma è l'ambiente dell'Italia. Incomincia a essere senza padri questa Expo. Ma allora un padre ce l'ha operativo, che è Sala, ed è che è Sala, d'accordo. Poi adesso occorre che Pisapia e Maroni stiano sul pezzo, ma sono sicuro che lo faranno, e con unanimità di intenti, lasciando da parte divisioni ideologiche eccetera. Ma occorre, e mi sembra che Matteo Renzi martedì arrivi là, occorre che il governo italiano impugni la situazione, dia una mano a Sala, perché alla fine, e poi lasciamo perdere Milano e la Lombardia, ma è un problema di immagine veramente nazionale. Anche perché questa vicenda sul piano internazionale certamente non aiuta gli investitori che dovranno arrivare, 24 milioni, insomma c'è molto da recuperare, no? Vedremo quanti saranno. Io le do una cosa per certo, io sto arrivando da New York, sono arrivato l'altro ieri da New York, per di mestiere giro il mondo, stiamo aprendo a Mosca, a San Paolo del Brasile, tutti sanno dell'Expo e c'è una voglia enorme di venire in Italia. Vabbè, questa è una buona cosa. Ogni volta che noi guardiamo i numeri dei turisti stranieri in Italia ci stupiamo, cioè ci stupiamo del fatto che Roma faccia 7 milioni e 8 di turisti stranieri e Londra ne faccia 20, no? E ci domandiamo perché, il paese che ha il 70% del patrimonio artistico del mondo, che ha i paesaggi più belli. Quindi lei girando il mondo dice... Sento una voglia d'Italia enorme. Dobbiamo adesso, abbiamo un anno davanti, migliorare le infrastrutture turistiche, prepararci. Come diceva la Moratti, sì. Bisogna, secondo me, a questo punto, che Matteo Renzi dia a Sala una task force, un gruppo di uomini giusti. Sì. Abbiamo tra 3 milioni di dipendenti statali, avremo una dozzina di persone con le palle serie, con tanta voglia di lavorare, che si impegnino. Certo. E dobbiamo farcela. A un anno, speriamo veramente. C'è Mario Seghi che vuol fare una domanda. Sì, sembrerà eccentrica, in realtà non lo è. Quanto sarebbe contato avere una Alitalia diversa per portare i turisti, l'Expo, farla crescere e così via? Tanto. Guardi, ieri arrivavo proprio da fuori, stavo cercando di cambiare un biglietto dal test dell'Alitalia e mi hanno fatto un sacco di difficoltà, c'erano 5 persone che facevano niente, una intasata che lavorava tanto, mi è venuto proprio da dirgli è per forza che arrivano gli altri. Mi sembra una domanda efficace. Pietrangelo Buttafuoco, anche lui una buongiorno domanda. Una domanda. Allora io parlo al Farinetti, che è un imprenditore che non è, come si può dire, macchiato da sospetti, che ha anche un impegno, diciamo, culturale, un'identità ben precisa. Non ritiene che sia necessario a questo punto, adesso che al governo in Italia c'è Matteo Renzi, adesso che le realtà più dinamiche anche della sinistra sono coinvolte nella gestione dell'azienda Italia, che si faccia definitivamente un confronto e si dica che molto spesso la magistratura impedisce all'imprenditoria di lavorare? Può essere, in questo caso, nel caso dell'Expo, direi di no. In questo caso hanno fatto un'operazione giusta e furba. Di pulizia che aiuta la velocità dell'impresa. Come di pulizia? È vero, però la domanda che mi è stata fatta sottintende una verità, e cioè che noi imprenditori siamo terrorizzati dalla magistratura, siamo terrorizzati da molte istituzioni che ci controllano. Da un lato è giusto, perché ci sono anche dei banditi e dei furbetti, ma spesso per cercare di beccare i banditi furbetti si rende la vita molto difficile. Anche perché troppi controlli spesso non servono a niente, ma servono ad aggirare il problema. Posso aggiungere una cosa? Certo. Perché mi fa riflettere un fatto che l'80% delle aziende nel sud Italia sono tutte bloccate. Beh, sì, molte sì. E gli imprenditori vivono nell'ansia continua di dover da un lato farsi sparare dalla mafia, dall'altro lato di finire in galera. Il sud Italia è un problema da prendere a sé e lì bisogna cambiare verso veramente tanto, perché è un problema. Senta Farinetti, dica. Si impegna a tornare periodicamente per dirci la verità sui lavori? Visto che li segue? Faccio un grande intervento dentro l'Expo, lo faccio volentieri di 8.000 metri quadri. E sa come lo chiamerò? Come? Lo chiamerò The Answer My Friend is Blowing in the Wind, perché narrerò i venti italiani e racconterò che la biodiversità italiana è frutto di questi meravigliosi incontri tra i venti del mare e i venti delle montagne. Questo secondo me è un po' il filo logico da dare all'Expo: narrare la biodiversità del nostro paese, che è veramente il primato che noi abbiamo rispetto a tutto il mondo. E Sala è su questa linea? Totalmente, Sala c'è. È necessario che a Sala, bisogna dare, questo secondo me lo deve fare Matteo Renzi, un po' di uomini sul pezzo. Sì, questo abbiamo capito. Va bene, allora aspettiamo Sala quanto prima. Grazie e buon lavoro Farinetti. Grazie Minoli, buongiorno. 800 24 00 24 349 238 6666 l'SMS. Professor Giovanni Fiandaca, mentre a Milano la giustizia fa il suo corso sull'Expo, sempre a Milano esplode lo scontro interno alla procura. È il segno di un malessere profondo della magistratura? Le posso dire che conosco il procuratore capo, Bruti Liberati, lo considero un magistrato molto serio e molto competente. Ci ho premesso, ma rileverei che la gestione di grandi procure oggi, come Milano o per esempio Palermo, può divenire un'impresa molto difficile. È difficile, ecco. Così come è avvenuto nella sfera politica, anche nella magistratura penale, si assiste a un fenomeno di forse eccessiva personalizzazione e mediatizzazione. Dico che il magistrato d'accusa non si rassegna a considerare se stesso parte di un ufficio unitario e impersonale, certe volte. Ecco, uno scontro pubblico però così aspro, come raccontano i giornali, che coinvolge anche inchieste come il processo Ruby, che cosa significano? Quello che ha detto lei adesso? Significa che gli scontri personalistici possono perdere di vista l'esigenza di considerare se stessi parte di un'istituzione superindividuale, no? E possono portare anche a sottovalutare l'esigenza di non dare un'immagine esterna eccessivamente conflittuale. Ecco, professore, lei dice: vado in Europa per far recuperare la cultura garantista alla sinistra. Perché l'aveva persa? Ma ho accettato la candidatura per questo, più che andare in Europa. L'aveva persa? Sì, io penso che la sinistra abbia in questi anni delegato alla destra la gestione del garantismo, e così come è gestito alla destra, il garantismo è stato in non pochi casi peloso, interessato. Ecco. Io direi che la sinistra deve recuperare una concezione del garantismo però autentica, super partes, all'altezza delle esigenze di questo momento storico. Ecco, il presidente Renzi ha detto con chiarezza: l'avviso di garanzia non è una condanna ma un atto a tutela del cittadino. È l'inizio di questa rivoluzione culturale, che dice lei? Vorrei proprio che fosse l'inizio di questa rivoluzione culturale, e mi piacerebbe poter dare un contributo anche piccolo a questa nuova prospettiva. Ecco, cioè berlusconismo e anti-berlusconismo hanno fatto comodo a tutti in qualche modo e hanno fatto il danno della giustizia? Hanno fatto comodo a tutti, anche alla sinistra, che ha di fatto delegato alla magistratura il compito di eliminare dalla scena politica Berlusconi. E diciamo che L'anti-berlusconismo ha comportato una difesa forse eccessiva a tutto campo dell'azione della magistratura penale, finendola quasi col sacralizzare, fino ad arrivare alla tesi che è sciocca e bigotta, che le sentenze si rispettano soltanto e non si discutono. Insomma, un'affermazione del genere la considero difficilmente compatibile con i principi di una democrazia liberale degna di questo nome. Cioè, si rispettano ma si possono discutere, questo si devono discutere. Ecco. Quindi verità supposte e verità accertate devono essere considerate come tali e non confuse tra loro. Devono essere tenute rigorosamente distinte, innanzitutto da parte della magistratura, ma anche da parte dei media. Purtroppo i media fanno spesso un pastone confuso e alla fine disinformano più di quanto non informino. Ecco, oggi magistrati eccellenti in prima linea come Ilda Boccassini e Giuseppe Pignatone raccontano gli effetti negativi del legame tra PM e informazione. Ascolti qua. Ci sono dei magistrati, dei pubblici ministeri che forse hanno utilizzato il proprio lavoro per altro. È inutile negarlo. Questo c'è stato e io mi auguro che non ci sarà più. Una seria autocritica anche all'interno della magistratura, che doveva fare e non l'ha fatto dopo la morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Se le prove non le troviamo, non sono sufficienti, dire sì, però facciamo spuntare tutto sui giornali. Perlomeno sarà danneggiato come uomo politico, come imprenditore, come magistrato, quello che volete voi. Noi dobbiamo cercare le prove, fare, se ci riusciamo, con tutti i nostri limiti, con tutte le nostre difficoltà, cercare di non fare mai il callo. Ho avuto un forte scontro con una forza di polizia a Roma perché, avendo ritenuto di aver identificato l'autore di una violenza sessuale particolarmente efferata, hanno dato, prima ancora della decisione del giudice, è stato dato il nome, il cognome, è comparso il viso in televisione e tutto, una persona che era assolutamente innocente. Noi ci siamo arrivati in 36 ore a dimostrare l'innocenza. Nel frattempo la vita di quest'uomo era stata rovinata, perché era stato ovviamente licenziato, aveva dovuto cambiare quartiere, probabilmente sarà andato via da Roma. Ecco, professor Fiandaca, due grandi magistrati come la Boccassini e Pignatone fanno autocritica nel rapporto fra PM, insomma, fra giustizia e informazione. Questo è stato uno dei punti? Questo è stato uno dei punti e condivido pienamente l'analisi di Boccassini e Pignatone e do loro merito di riconoscere questo punto e di fare autocritica. Questo è uno dei punti nodali, un certo perverso intreccio tra giustizia e informazione. Ecco, professore, grazie. Un'ultima cosa: in qualche modo sente che l'aria sta cambiando da Milano a Palermo dentro la giustizia? Spero che sia davvero l'inizio di un cambiamento che però dovrebbe proseguire. 800 24 0024 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Vorrei leggere un SMS che ci è appena arrivato da un tassista che si chiama Enrico, un taxista di Milano, che dice: io sul mio taxi sento solo dire gli affari verranno fatti solo da chi costruirà Expo. A noi dopo rimarranno i debiti. Ecco, speriamo, Mario, no, Pietrangelo, no, che non sia così, una voce di un tassista che sente. Posso dire che sottoscrivo, sì, parola per parola tutto quello che ha detto Fiandaca, che è bravissimo. Bravissimo, ha fatto Pietrangelo? Resta il fatto che non c'è mai qualcuno che si assuma la responsabilità della sostanza. C'è un'Italia a pezzi, c'è gente che potrebbe lavorare e sicuramente chi si espone deve essere sottoposto a un fuoco di fila che non è fatto soltanto dalle difficoltà ovvie, ma anche di agguati che minano poi il risultato stesso di questa Italia. C'è il rischio che l'Expo salti, questa è la vera sostanza. No, io non credo. Che salti è difficile. Comunque, ma voglio mettermi nei panni degli imprenditori dall'estero. Osservano la scena, dicono Marameo. No, certo, il rischio dell'Expo è sicuramente grande, si è alzato di tantissimo. X24. C'è un grande salto in fondo al cuore. Prima deserto, adesso un'oasi. Via i cancelli, per favore, che non mi servono più. Emozioni. Avete presente, avete presente Amelia la fattucchiera? Io lo so che non ci crederete, però Amelia la fattucchiera si è presa di magma e ha scelto di farsi le labbra, anzi il becco blu. Perché? Perché si è stancata di tutta sta retorica masaniella. Ieri poi non ti dico che cosa è successo lì dalle parti del Vesuvio. E allora ha pensato proprio col becco blu, con le labbra blu, di andarsene via e di ricordare che comunque quando tutto si fa basso, basso, basso, greve, urlato, orrendo, bisogna ricordare che quella è la terra che ha conosciuto Giovan Battista Vico. Grande buttafuoco, Mario, le bolle oggi? Senti, senti, adesso senti. Allora, il mitico coro dell'Armata Rossa, perché noi ci dobbiamo occupare di Putin oggi, e non solo. Oggi è 9 maggio, cari amici, e il 9 maggio la Russia celebra il suo Victory Day, il giorno della vittoria, in quella che per loro non è, attenzione, la seconda guerra mondiale, ma, buttafuoco, la guerra patriottica, perché i russi unici nell'orizzonte occidentale sono quelli che non hanno mai proclamato un odio imperituro, ma hanno stabilito prima con Napoleone, poi col cancelliere del Reich, due percorsi di guerra dove hanno vinto e dove hanno interrotto gli odi. Mazzo. Allora, no, lezione di storia. È un giorno importante. La storia è lui. La storia. No, la storia. Questo no. No, è un giorno molto importante dal punto di vista della retorica, che in Russia ha una sua base fondamentale, fa parte dei pilastri, diciamo, su cui si fonda poi lo Stato, e perché solitamente questa data veniva festeggiata un po' anche da tutti i paesi ex satelliti della vecchia Unione Sovietica. A Kiev stavolta pare che non lo facciano. Devo dire che la cosa non è sorprendente. In realtà l'Ucraina era già in passato divisa su come festeggiarla e su quali eroi festeggiare. C'erano i filo russi, cioè, o meglio i filo sovietici, c'erano i filo tedeschi della seconda guerra mondiale, e non si mettevano mai d'accordo, dato che l'ex presidente Yanukovych contestò varie celebrazioni di eroi che secondo lui non andavano bene. Questo episodio, che sembrerebbe minimo ma in realtà è molto significativo, conferma quanto scritto da Foreign Affairs nell'ultimo numero, e cioè che il problema dell'Ucraina è l'Ucraina stessa. Cioè? E alle loro divisioni interne, i loro conflitti, è un paese completamente frammentato, l'est, il sud e l'ovest la pensano non solo diversamente dal punto di vista culturale, ma hanno differenze linguistiche, perché la maggioranza è russa dall'est e al sud, dalle altre parti invece no. Insomma, somiglia, sai, a quale paese in certe cose? A noi. All'Italia. Ah. Un po' sì, un po' sì. Your city is the bomb if your city making pain. Throw up a finger if you feel the same way. Senti, senti, un DJ direbbe senti come pompa. Senti, pum, che roba. Pum. Allora, è importante questa musica perché il dottor Dre, che è una stella dell'hip hop, ha fondato con Jimmy Jovine, che è un produttore musicale, una marca, un'etichetta che produce cuffie e streaming musicale, che si chiama Beats Electronics. Apple ha appena offerto 3,2 miliardi di dollari per comprarla. E questo la dice lunga sul mondo dell'alta fedeltà e della musica, che con l'avvento degli iPod e degli smartphone ha aperto di fatto una nuova era. È un business ovviamente colossale, si tratta della più grande acquisizione di Apple, quindi è una cosa che va seguita con attenzione. Parlavi di date, il 9 maggio di 36 anni fa fu ritrovato in via Caetani a Roma il corpo di Aldo Moro. Ecco, oggi, curata come sempre da Marina Milone, termina il ciclo delle tre puntate dedicate ad Aldo Moro. Andava a messa tutte le mattine come anche mia madre. Credo che lo facesse per un bisogno interiore di inginocchiarsi e di chiedere aiuto. Agnese, figlia di Aldo Moro, racconta che il padre ama i libri enormemente. La casa ne è piena. Dice che li avrebbe letti quando fosse andato in pensione e intanto li sistemava con cura. In pensione avrebbe scritto anche le sue memorie. Forse il destino dell'uomo non è di realizzare pienamente la giustizia, ma di avere perpetuamente della giustizia, fame e sete. Ma è sempre un grande destino. Ecco la storia nella seconda ora dopo il giornale radio, ma intanto Salamini. Se la sono presa con Jenny. Jenny Pucarogna, no? Sì. L'unica cosa che non mi è piaciuta, ha detto, era la sua maglietta. Chi l'ha detto? L'ha detto Beppe Grillo, che poi ha aggiunto: le carogne sono altri. Il ministro, il governo, la polizia che si fa vedere solo per manganellare. Dopodiché ha detto: noi andremo avanti così, non con violenza ma con colpi di magistratura alle solite. Allora io vi proporrei questo. Dica. Un Beppe Grillo ieri e un Beppe Grillo l'altro ieri, e dopo averli ascoltati una domanda proprio a Giovanni Minoli. La magistratura adesso si sente spalleggiata da un movimento che contiene 10 milioni di persone. E allora andremo avanti così, non con violenza, a colpi di magistratura. Si sono rovesciati tutti i concetti. Adesso i ladri non ci sono più, stanno andando al potere, sta andando al potere la gente. Mi fa più paura. Ecco, hai visto? Quello dell'altro ieri dice un concetto molto semplice: mi fa paura la gente. E lo diceva in un contesto particolare su cui tu puoi dare scienza e conoscenza. Cioè lo diceva da Gianfranco Funari. Certo. E io ti chiedo, sai, mi ricordo che Funari urlava "Forza di Pietro" ieri e oggi la stessa storia, ma con una differenza: che Funari in fondo non fece il Movimento 5 Stelle, è una sorta di Carlo Marx e di questo Lenin, è così? Ma Funari non c'è arrivato, è arrivato vicino però a fare un movimento, proprio vicino, poi è rimasto in televisione. E quindi a quale Grillo dobbiamo credere? A quello dell'altro ieri? La gente proprio è peggio. Sì, peggio della casta c'è la gente. Con 3G davanti. Durissimo. Quota rosa. Quota rosa. Sapevate che i fantini delle gare di trotto sono praticamente tutti uomini? Tranne una, Jessica Pompa, che ha 23 anni e nella gara di trotto a San Giovanni Teatino ha sorpreso l'intero ippodromo, che è rimasto muto perché ha vinto con il suo cavallo Nordback, come ha raccontato benissimo ieri Vittorio Feltri sul giornale. Ma il dettaglio, che in questo caso è la sostanza della sua vittoria, è che Jessica non usa il frustino per lanciare il suo cavallo. Quindi mi chiedo, per vincere anche le sfide quelle più dure, no? Non servono muscoli e aggressività, ma servono la sensibilità e la volontà di mettersi in ascolto degli altri? Sciolgo le trecce e i cavalli, corrono, e le tue gambe eleganti ballano. Balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella, non ti fermare ma balla, fino a che non finiranno le stelle. Ma abbiamo i nostri ospiti oggi? Ci sono gli ospiti? come sempre, a grande richiesta. A grande richiesta ci sono i nostri due amici, Dudu e Ajace Telamonio, vero Pietrangelo? Ajace Telamonio, solo un uomo raffinato come Massimo D'Alema poteva chiamare così il suo cane. Poi in fondo Dudu si chiamava Gennaro, ma poi arrivò il Carogna, gli ha rubato la primogenitura e Berlusconi l'ha ribattezzato Dudu. Dudu è in linea? Sì, è in linea, grazie, buongiorno, che bella voce, è contento. Mario, vuoi fare la tua domanda a Dudu? Ce l'ho qua sulle labbra come avessi un osso in bocca, caro Dudu. Quello ce l'ha Iace. No, pure Dudu non scherza. Senti, ma Dudu, ma vai con Papi ai servizi sociali? Perché nel caso vorremmo un reportage a questo punto. Andrei volentieri? Andrei volentieri, grazie Dudu, andrei volentieri, ma la situazione qui non è tranquilla. Qui dove? A casa, sento un tintinnar di guinzagli. Ho appena saputo che al Tribunale di Milano hanno preso in forza 400 accalappi a cani, qua non si scherza. Andrà da solo, mi fa piacere, andrò a salutare i simpatici vecchietti dopo. Grazie Dudu. Ma Dudu è preoccupato. Accidenti. Grande preoccupazione. E qua c'è in linea? Sì, grazie, buongiorno. No, io vorrei sapere una cosa semplice. Ma Primo Greganti è sempre quel Primo Greganti dell'altra volta di Mani Pulite? Non so se lo conoscevano. Com'è? Conosco bene Primo Greganti, ha una grande competenza sulla potatura degli ulivi. E non credo ci siano altri commenti da fare se non... questa non so se la posso tradurre. Ma no, lascia perdere. No, ha detto che apprezza sempre le tue domande. Ancora? No. Che sei bravissimo, però dice che gli hanno riferito di un sapore stoppaccioso dei polpacci dei magistrati. E quindi non li alza. Grazie Dudu, grazie Iace. Mix 24. Allora, Mission Impossible, perché qua c'è una lezione che viene dal mercato che io vorrei ricordare stamattina, e cioè la decisione presa dall'Assemblea dell'ENI ieri di bocciare le norme etiche, una stringente norma etica proposta al Tesoro per la nomina dei suoi consiglieri. L'80% dei fondi esteri ha votato contro. Era una norma che non esisteva in nessuna parte del mondo. Come ha detto Scaroni, il mondo si è espresso. Ne derivano un paio di cose: A, che non bisogna inseguire i demagoghi quando si parla di mercato; B, che gli investitori esteri sono interessati a regole chiare e governance salde; 3, che bisogna avere ogni tanto, anche da parte del Tesoro, l'umiltà di sedersi, ascoltare, guardare che cosa succede intorno al mondo e con umiltà accettare un risultato, che è stato quello di ieri. Mi sembra molto interessante questa riflessione, professor Simonelli. Lei a che mandato è all'università? A che mandato è? Quanto lì non siete a mandati? Siete no, a vita? Eterni. Ok. Dove era il canale ieri sera, professore? Forse ce lo dice qualcuno. Voglio trovare un senso a questa voglia, anche se questa voglia un senso non si... Allora, ci siamo. Grande prova di ricerca di senso. Mentre su alcune reti, come la 7, come Sky, si va sulla stretta attualità, si cerca di andare sulla stretta attualità, Rai 2, Rai 3 danno un senso straordinario al repertorio, e un legame tra le due trasmissioni è Vasco Rossi, perché su Rai 2 in prima serata c'è una puntata di Unici molto bella dedicata a Vasco Rossi, e su Rai 3 alle 11 parte quel gran pezzo dell'Italia, il programma di Riccardo Bocca dedicato a Edmondo Berselli, alle sue riflessioni, con testi di Edmondo Berselli letti letti molto bene da Gioele Dix, e il tema, sa qual è? È la triade biografica arbasiniana e berseriana di brillanti promesse, soliti stronzi e infine venerati maestri. Allora c'è questa parabola dedicata ad alcuni personaggi italiani, Giuliano Ferrara, Battiato per la gioia del nostro amico lì presente, Nanni Moretti e anche Vasco Rossi, Roberto Benigni, Vasco Rossi. Allora questa Vasco Rossi che passa dalla prima serata di Rai 2 alla seconda serata di Rai 3, da un programma più popolare, più dedicato alle canzoni, a un programma invece dedicato, come dire, all'intellettualità italiana. Perfetto coordinamento di palinsesto, insomma. Un senso meraviglioso, dimostrando che si può fare servizio pubblico. Bellissima televisione di servizio pubblico con il repertorio, con le teche. L'importante però è trovare un senso a questa vita. Ma scusi, un senso a questa e sulla storia. 7 non ha visto il debutto? Come dice qualcuno lì, che mi prende ogni tanto anche amabilmente in giro, non riesco a vedere tre cose contemporaneamente. Ma tu, Sara, l'hai visto? Sara? Eh sì. L'hai visto? Sì. Com'era? Di che programma stiamo parlando? Stiamo parlando di Anno 1, il programma che conduce Giulia Innocenzi al posto di Santoro per fare una versione più ti è giovane. Ma intanto vabbè, brava, perché il coraggio di andare in onda al posto di Santoro va riconosciuto, però no. Ah, non ti è piaciuto? No. No, un po' superficiale. Bella tranchant, perché vabbè, non è che ha detto, però no. Ah, no. Pietrangelo? Non dice... solo ha avuto il coraggio di prendere il posto di Michele Santoro, ma ha clonato Maria De Filippi in se stessa, con un risultato che sicuramente... Non ti è piaciuto? Ma era una cosa spaventosa, luoghi comuni, ma posso dire una parola, tanto me l'anima Mazzucco di... Sì, una capaminchiata bestiale. È vero. Vabbè, non è piaciuto qua, professore. A Torino è iniziato il Salone Internazionale del Libro e Sara Tardelli, che oramai è perversa e domina nella nostra trasmissione, ha intervistato Ernesto Ferreri. Ernesto Ferrero, direttore editoriale del Salone Internazionale del Libro di Torino da 15 anni, ma si emoziona ancora prima dell'inizio del Salone? Sì, mi emoziono, ma soprattutto mi commuovo, e non credo sia un fatto senile, quando a partire dal giovedì mattina vedo allungarsi queste code all'entrata dell'ingotto, e soprattutto quando vedo questo pubblico sciamare per i padiglioni, comprare con molta intelligenza, partecipare con grande intensità a questo spropositato cartellone di eventi. Insomma, diciamo che anche il pubblico fa la sua parte importante. È il grande protagonista, perché noi possiamo fare quello che vogliamo, ma se non c'è questa risposta, se non c'è questa partecipazione, insomma, si sentono a casa loro. Questa è la cosa bella. Dottor Ferrero, c'è stata anche un po' una polemica quest'anno sul Salone del Libro. Voi siete sempre perfetti, impeccabili. Oddio, cioè, si è scritto che avete escluso all'ultimo momento Bisignani dal programma. No, allora, innanzitutto non è stato all'ultimo momento. Questo era un discorso che avevamo avviato col suo editore. A un certo punto mi è sembrato che questo libro non rientrasse negli standard culturali del programma. Gli ho detto: senti, guarda, ne prendo un altro del tuo, questo non mi sembra il caso. E devo dire, ci ho visto bene, cioè io rivendico la libertà di fare delle scelte. Non è che qui, per aver scritto un libro, entrano tutti. Devo dire, ci ho visto anche bene, perché questo, lo dico a chiare lettere, che è il nome dell'editore, è un brutto libro, un libro scritto male, e quindi benissimo, mi sembra giusto che non abbia accesso all'ingotto. Alla fine Bisignani ci sarà per presentare il libro su Andreotti? Se viene sono contento, ma addirittura si è parlato dell'intervento del Vaticano, in questo romanzo ci sarebbero dei cardinali, ma figuriamoci se c'è qualcuno che si preoccupa per un evento piazzato alle 3 del giovedì, che non è propriamente un'ora di grande ascolto e che coinvolge sì e no 50 persone. Forse i poteri forti hanno tempo di occuparsi di queste cose. Senta, il Vaticano poi hanno anche altro da fare. Dottor Ferrero, torniamo ai libri. Solo nell'ultimo anno in Italia si sono persi 2 milioni di lettori. Ma è perché non sappiamo più scrivere libri? I libri forse se ne scrivono persino troppi, nel senso che il problema è che non bisognerebbe appunto magari scrivere meno e leggerne di più. Quei 2 milioni non sono lettori, sono acquirenti, che è una cosa diversa. Sì, però insomma, no, poi bisogna anche essere concreti, no? Bisogna che la gente li compri i libri. Ci sono meno soldi, compro fatalmente meno libri, però il dato interessante è che le frequentazioni in biblioteca sono aumentate, addirittura due cifre, questo è un dato interessante. Chiaro che questo è un problema gigantesco che non riguarda più un comparto industriale, riguarda il paese. Ecco, oggi non abbiamo avuto tempo di fare il canzoniere, ma i libri noi li suggeriamo tutti i giorni. Tra poco, nella puntata sulla storia curata come sempre da Marina Milone, il ritratto dello statista Aldo Moro, ma anche del padre e dell'uomo, realizzato da Flavia Medusa. Mario? Ma Farinetti, Farinetti mi ha ricordato una bellissima canzone di Bob Dylan. Chiudiamo così? E allora chiudiamo. Blowing in the Wind. Vai. How many roads must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they fall?